tantissimi, perché purtroppo Pistoia risponde poco a queste sollecitazioni, però insomma mi auguro che le persone che sono qui possano farsi veicolo di, appunto, della promozione di queste riflessioni importanti, anche del testo. Invito tutti chiaramente a passare dal banchino, diciamo, lì di dove sono esposti i libri, e insomma spero anche che ci possa essere un'altra occasione, no, per poter parlare non solo, appunto, di queste figure importanti, ma anche di tematiche che ci stanno molto a cuore in un periodo, diciamo, abbastanza difficile della nostra storia. Il Centro di Documentazione è a disposizione, come sempre, per iniziative di dibattito e di, insomma, di comunicazione di idee. Posso salutare tutti? Sì.